Cari fratelli e sorelle, nelle nostre meditazioni su grandi personalità della Chiesa antica arriviamo oggi a uno dei più grandi, Origene Alessandrino, che è realmente una delle persone determinanti per tutto lo sviluppo del pensiero cristiano. Origene raccoglie l'eredità di Clemente Alessandrino, meditato mercoledì scorso, e la rilancia verso il futuro in una maniera talmente innovativa da imprimere una svolta irreversibile allo sviluppo del pensiero cristiano. Fu un vero maestro, e così lo ricordavano con nostalgia e commozione i suoi allievi. Non soltanto un brillante teologo, ma un testimone esemplare della dottrina che trasmetteva. Egli insegnò, scrive Eusebio di Cesarea, suo biografo entusiasta, che la condotta deve corrispondere esattamente alla parola, e fu soprattutto per questo che, aiutato dalla grazia di Dio, indusse molti a imitarlo. Tutta la sua vita fu percorsa da un incessante anelito al martirio. Lui aveva 17 anni quando, nel decimo anno dell'imperatore Settimio Severo, scoppiò ad Alessandria la persecuzione contro i cristiani. Clemente, suo maestro, abbandonò la città e il padre di Origene, Leonide, venne gettato in carcere. Suo figlio bramava ardentemente il martirio, ma non poté realizzare questo desiderio. Allora scrisse al padre, esortandolo a non recedere dalla suprema testimonianza della fede. E quando Leonide, suo padre, venne decapitato, il piccolo Origene sentì che doveva accogliere l'esempio della sua vita. 40 anni più tardi, mentre predicava a Cesarea, uscì in questa confessione: a nulla mi giova aver avuto un padre martire se non tengo una buona condotta e non faccio onore alla nobiltà della mia stirpe, cioè al martirio del mio padre. Questa era per lui la vera nobiltà, e alla testimonianza che l'ha reso illustre in Cristo. In una omelia successiva, quando, grazie all'estrema tolleranza dell'imperatore Filippo l'Arabo, sembrava ormai sfumata l'eventualità di una testimonianza cruenta, dico, in una omelia successiva Origene esclama: se Dio mi concedesse di essere lavato nel mio sangue, così da ricevere il secondo battesimo avendo accettato la morte per Cristo, mi allontanerei sicuro da questo mondo. Sono beati coloro che meritano queste cose. Queste espressioni rivelano tutta la nostalgia di Origene per il battesimo di sangue. E finalmente questo irresistibile anelito venne almeno in parte esaudito. Nel 250, durante la persecuzione di Decio, Origene fu arrestato e torturato crudelmente. Fiaccato dalle sofferenze subite, morì qualche anno dopo. Non aveva ancora 70 anni. Ho accennato nell'inizio a quella svolta irreversibile che Origene impresse alla storia della teologia del pensiero cristiano. Adesso dobbiamo domandare in che cosa consiste questa svolta, questa novità, gravida di conseguenze. Essa corrispondente in sostanza alla fondazione della teologia nella spiegazione delle scritture, far teologia era per lui essenzialmente spiegare, comprendere la scrittura, o potremmo anche dire la sua teologia è la perfetta simbiosi tra teologia ed esegesi. In verità, la sigla propria della dottrina origeniana sembra risiedere appunto nel incessante invito a passare dalla lettera allo spirito delle scritture per progredire nella conoscenza di Dio. E questo cosiddetto allegorismo, così ha scritto von Balthasar, coincide precisamente con lo sviluppo del dogma cristiano operato dall'insegnamento dei dottori della Chiesa, i quali hanno accolto in un modo o l'altro la lezione di origine. Così la tradizione e il magistero, fondamento e garanzia della ricerca teologica, giungono a configurarsi come scrittura in atto. Possiamo affermare perciò che il nucleo centrale dell'immensa opera letteraria di origine consiste nella triplice lettura della Bibbia. Ma prima di illustrare questa triplice lettura, conviene dare uno sguardo complessivo alla produzione letteraria dell'Alessandrino. San Girolamo, nella sua Epistola 33, elenca i titoli di 320 libri e di 310 omelie di origine. Purtroppo la maggior parte di quest'opera è andata perduta, ma